non disegni classici, quelli che fai i bambini, delle cose perfette, cioè lui prende un'immagine e te la disegna, per dire, vedi un panorama, una cosa, ma perfettamente tipo fotografico, una cosa spettacolare. E l'hanno sequestrato, proprio arrestato, la polizia l'ha arrestata e portato nella cosiddetta cella, non so dove l'abbiamo messo, ha fatto ridere il mondo, perché secondo loro era una tecnologia troppo avanzata e poteva essere una spia. Infatti, ma guarda, proprio ieri stavamo parlando dell'evoluzione anche robotica che pare che ci siano in giro. Allora tu ti ricordai che da giovane c'era qualcuno che andava in giro per farsi vedere con una bella ragazza con le famose bambole gonfiabili. Adesso pare che queste bambole gonfiabili non siano più tanto gonfiabili, ma siano a tutti gli effetti dei veri e propri robot. E abbiano dei prezzi veramente enormi. Sono curioso, sarei curioso di sapere se questi robot hanno anche la forza, diciamo, di un essere umano, oppure se ce l'hanno doppia quadrupla, perché tu capisci che se avessero la forza doppia o quadrupla rispetto a un essere umano, insomma, andarci a fare qualcosa sarebbe piuttosto rischioso se si incazza. Sì, lo sono, già l'ho visto, ma ormai non ci meravigliamo più di niente, c'è cosa. Quei ragazzi di questo Politecnico di Torino avevano inventato, non era niente complicato, era una specie di fascia che tu te la mettevi nei punti strategici, tipo una cintura, te la mettevi nel collo, te la mettevi nel petto per le donne e anche sotto. E c'erano dei sensori e tu col cellulare toccavi questi punti e stimolavi e vedi le reazioni, avevano fatto questi ragazzi qua. Poi ci sono queste specie di bambole che stai dicendo tu, addirittura computerizzate, che raggiungono delle funzioni, diciamo, simili a quelle umane, eccetera eccetera. Ormai non ci meravigliamo più di niente. Eppure era stato previsto, se tu ti ricordi, non so se credo fosse quel film con Alberto Sordi, che c'era quella cameriera che in realtà era un robot, te lo ricordi? Mi sembra, io Serafina, una cosa del genere, già ho capito che li faceva la cameriera, no, Alberto Sordi, sì, forse era Alberto Sordi, sì, che era vestita con il vestito da cameriera, certo, che poi si è innamorata a quello. Per dire quanto le cose più impossibili si possano realizzare. Beh, non so se l'hai sentito che il famoso comandante Kirk finalmente nello spazio c'è stato davvero. Sì, dice c'è una fantasia. Ti dico, a me Star Trek non mi è mai piaciuto, ma neanche a guardare i 10 minuti, un tipo di fantascienza che non piace a me. Però quello lì è salito sullo spazio con quello Elon Musk, quello della cos'era, della cosa, Tesla o Google, poi si chiama Elon Musk, cosa la comanda? Amazon, scusa, non c'entra Tesla, non c'entra Tesla e coso, non mi vengono i nomi adesso. Ma sono insieme, no? A chi si dà più colpi, tanto sono due avversari, come Paperone e Paperoni e l'altro Riccone che non mi ricordo. Erano Bill Gates, erano i più ricchi, che ormai è stato, sai chi adesso è il più ricco di tutti, che ha superato a tutti. L'ho sentito, però non me lo ricordo il nome. Non mi ricordo il campo più che altro. Allora, sono sempre stati quei tre, quello della Microsoft, Bill Gates, dell'Amazon e l'altro di coso, Zuckerberg, qualche altro si chiama, vabbè, quel gruppo lì erano 5-6, adesso che era sempre tra i più ricchi, i primi 10, il più ricco assolutamente adesso è quello indiano, il leader mondiale dell'acciaio, però se tu lo vedi un poveraccio, vedi la casa sua, una casa media, diciamo una casa media italiana, non è paragonabile a una casa di quei super ricchi, e tu lui fa una vita, un tono di vita normale, c'ha moglie con figli, non c'ha 50 matrimoni tipo gli altri, ed è l'uomo più ricco del mondo economicamente, nel senso c'ha il più grande produttore di acciaio del mondo, che c'ha anche la, come si chiama, quella che c'è a Taranto, l'Ilva, fa parte del suo gruppo. Infatti ce la stanno combinando bene lì. No, invece stasera ho visto il telegiornale, cosa di Berlusconi, che era accompagnato da questa ragazza, no? E le stringeva la mano, non so se per aiutarlo perché erano insieme, però sai, guardando Berlusconi viene una sensazione di come si dice, ti fa quasi pena, perché potrebbe essere la nipote oramai, penso. C'è questa sensazione così di non so come esprimerla, di tenerezza quasi, dai. Sì, no, è ridicola lì, perché non esiste una cosa del genere. Ma la cosa più evidente, nel senso che mi sa di sporco, è il fatto quando c'era la moglie di Trump, una bellissima donna, tra l'altro molto intelligente, non è una stupida, perché ho visto anche degli spettacoli alla televisione quando la intervistavano. La volta che lui ha tentato di dare la mano e lei l'ha allontanata, perché anche ti stai dando la mano? Cioè, come per dire, in pubblico a volte puoi fare anche finta di volerti bene, lei proprio gliel'ha allontanata, schifata la mano, mentre questa ragazzina, che può essere la nipote come hai detto tu, questa sembra vuol fare la scena dell'innamorata, ma che cacchio innamorata, gli darà chissà quanti soldi al mese e basta, finisce tutto lì il discorso. Già era mezzo scandalo, ma non c'era tutta questa differenza di età, Briatore con Gregoracci, però diciamo un pochettino di simpatia ci poteva essere. Ma questa è proprio una cosa ridicola. Beh, sì, scusa, era innamorata, era proprio innamorata, ma non di lui, dei soldi. Hai detto bene, io non so quanto Berlusconi, perché per certi versi fa bene, anche se un uomo del suo rango potrebbe farne anche a meno di farsi vedere così pubblicamente, perché era un politico che ha rappresentato per un certo periodo l'Italia nel mondo, per cui diciamo devi cercare di tenere anche un'immagine, o almeno se fai quelle cose non farle troppo in modo visibile, però non lo critico più di tanto, lui c'ha 80 anni, cacchio, buon per lui che riesce a fare quelle cose, però ho seguito delle telefonate, intercettazioni, ma cose vergognose, non tanto per lui, per le tipe che ci stavano con lui, ma dico, ma come fai? Ma guarda, c'erano 70 persone che a quello lì le stanno pregando la vita di durare almeno fino a 120 anni, se non sono rovinate il giorno che quello muore, ne vedi gente scappare a destra, a sinistra, in alto e in basso. La cosa bella è che a volte riuscite a piazzarle bene, c'è quella, come si chiama, una bellissima donna politica, come si chiama, che l'hanno criticata tanto, che si diceva che era l'amante, la di lui, di cosa, che ho sentito un paio di telefonate, come si chiama quella, cavolo, non mi ricordo di che cosa era, sempre il partito Forza Italia, ce l'ha messa in mezzo ed era ministro di non so che cosa. Carfagna? No, anche Maria Carfagna, no, un'altra, tipo Pivetti, no, non c'è niente la Pivetti, non è così. Ma una bella donna, alta, bionda castano chiara, dai, come si chiama, che era tipo mezzo velina, non faceva la velina ma sembrava una velina, bellissima, bellissima donna, non mi viene il nome però. Se no il coraggio che c'ha a dimostrarsi, adesso lasciamo perdere Berlusconi, ma anche l'altro, il ragazzaccio, no, piccolino, il Renzi, con l'altra, la bambolina la chiamano, cioè i figli di papà, gente, ma come pretendono che della gente simile capisca anche a milioni di distanza, di anni luce, cosa significa essere poveri, cosa significa essere, ma poi ne hanno combinato di cotte di crude anche quelli. Ma la cosa più ridicola è che la gente ancora non l'ha capito, se tu vuoi eliminare la politica, migliorare, non eliminare, la politica italiana inizia a non dare stipendi ai politici, tu lo devi fare per vocazione, ti do le spese, quanto è il minimo, se le spese sindacale, quanto è? 2000 euro al mese, lo stipendio mediocre, dai, di una persona, di un impiegato di terzo, quarto, quinto livello, ti do lo stipendio di 2000 euro, tu non prendi niente di altro, se tu c'hai la trasferta, ti pago la trasferta come la paghi a un medico, come la paghi a un coso, a un infermiere, a un qualunque persona, niente di più di quello lì. Quanto sei venuto in treno, quanto costa, anziché parte andare hotel 5 stelle, macchina di lusso, eccetera, eccetera. Ti do il minimo che puoi dare a un operaio di buon livello, di medio livello. E tu lo sai quanta gente non ne farebbe più di politica. Adesso sta diventando una vocazione essere politico o sindacalista. Sindacalista ancora di più, perché se ti sindacato guai. Prima il sindacalista era dalla parte dei lavoratori, adesso cacchio esattamente contro, dalla parte dei sud. No, prima il sindacalista era proprio morto di fame, perché non poteva neanche accettare neanche una promozione, perché subito lo aspettavano in ministro a picchiarlo. Adesso invece sono i primi ad andarsene in pensione con tutto quello che prendo. C'è stato un periodo in cui i sindacati veramente hanno rovinato l'Italia. Prima veramente erano dei veri sindacati, poi hanno iniziato a esagerare e quindi hanno fatto quello che hanno fatto. Boh. Comunque non so se hai visto invece l'altro servizio, quello di, come li vogliamo chiamare, dei dimostranti che hanno fatto quei disordini. Perché anch'io forse ingenuamente mi facevo la domanda, ma come fai tu a pagarti un avvocato del calibro di Taormina o quelle altre due che hanno un intero studio legale a disposizione? Cioè, ma me lo stavo dicendo anche quando stamattina sono andato al bar a fare colazione, ho detto che c'è la stagione, che c'è tanta gente soprattutto venuta a dimostrare a Trieste, da tutte le parti d'Italia, ma questa gente che va a dimostrare, cioè uno di noi, un essere comune, secondo te si spende 200, 300 euro a andare lì, magari a essere pure picchiato? Ma secondo me è una cosa fuori di testa. Questi qua sono stipendiati a un servizio, in effetti ha detto che ci sono dei grossi finanziamenti che non riescono a capire da dove arrivino, però sicuramente sono da paesi stranieri. E questi hanno addirittura anche una televisione, capito, online, finanziata anche lì, punto di domanda. Vabbè, noi non sappiamo niente, cioè noi viviamo in una realtà diversa da quella che è la realtà. Basta vedere le televisioni, ti raccontano tutto quello che vogliono loro. Io ho visto un esempio proprio a Trieste, non so se te l'ho raccontato, l'ho raccontato ad altre persone comunque, e c'era il giornalista in diretta di una televisione che non ho capito che cosa è, ecco vedete qua, e stanno arrivando le navi, ecco sta arrivando adesso la nave dalla Turchia, una carboniera, dico, si stava inventando le balle, e c'erano subito questi di Trieste, dice ma che stai raccontando, vedi che qua è tutto bloccato, ma io volevo, c'è un servizio inventato, cioè ti cambiano la realtà delle cose, poi te la trasmettono alla televisione e tu sei sicuro che non è successo niente. Ci sono tante cose, io mi sono abituato adesso alla televisione a non guardarla neanche, perché ti raccontano solo balle, le balle che vogliono loro. Prima c'era l'opinione di destra e quella di sinistra, adesso ci sono due, c'è un'opinione unica di tutto quanto, soprattutto per questo discorso del Covid, che sta diventando menzogna, balle, statistiche inventate, cose che non stanno né in cielo né in terra, cose che si raccontano che non sono successe, cose così. Infatti ormai noi non viviamo più nella realtà, e per cui non entriamo nel discorso di tutto quello che sta dicendo tu, sennò ci sarebbe da stare giorni e giorni parlando, perché ci sono opinioni diverse. Il giornalismo sta diventando una cosa politica, non più una vocazione che uno scriveva la notizia, andava, controllava il fatto. Adesso no, non funziona più così, adesso ci dicono devi dire questa notizia. No, riguardo a questo io mi riferivo a dei giornalisti che fanno tipo giornalisti di guerra, no? Sono giornalisti reporter indipendenti, e da questa inchiesta è uscito qualcosa di molto preoccupante, che ci dovrebbe preoccupare quando una persona che tra l'altro appartiene a quella categoria ti dice ma in fondo, se voi guardate bene, se ho picchiato un giornalista, lui ci ha anche guadagnato, perché adesso tutti ne parlano, eccetera. Poi, se devo finire in galera, ben venga, tanto c'è qualcuno che mantiene la famiglia, cioè, ma ti rendi conto di cosa sta dicendo la gente? A te ti sembra normale, ma uno di noi andrebbe in galera e poi scopri che magari sei difeso da un avvocato che ti costa più un appartamento. Sono tutte cose anomale, tutte cose strane di questi personaggi che escono dalla fogna, perché sono tutti ex pregiudicati che ne sono salvo. Perché cosa? Per quale motivo? Se ben ci guardiamo, sono delle cazzate. Se ci fossero in vita i nostri nonni direbbero: ma di cosa state parlando? Non capisco neanche perché questa gente è qua. Ah, hai detto bene, ormai noi viviamo, come ho detto prima, è una cosa che non sappiamo, nel senso ci sono delle persone che decidono, si svegliano la mattina, beh, domani non è più domenica, domani da oggi si chiama lunedì, dobbiamo decidere che tutti dobbiamo dire che è lunedì, e fanno in modo che tutte le persone si abituino a dire che oggi è lunedì, per dire, quando ci sono stati quei fatti di Trump che sono entrati alla Casa Bianca, che hanno accumulato, ma ti pare che in un posto così sorvegliato ti permettono di entrare? Oppure quelli che prendono, che ha pestato quel negro, quel poliziotto ha pestato quello di colore, l'ha ammazzato. I migliori avvocati del mondo si sono messi a dividere nel mondo degli Stati Uniti per difendere quella persona lì. Però qui stava andando l'opinione pubblica, si stava rivoltando. Ci sono sempre delle persone al di fuori della nostra immaginazione, massoni o cose del genere, servizi segreti del via. Ci sono tante di quelle cose che neanche ci immaginiamo. Ma cose che, ma è possibile che succedano queste cose? Ma tutti i settori, dal settore della politica, dal settore che dalla politica ci hanno messo quella persona in Italia perché è più malleabile, nella magistratura ci hanno messo quello lì perché riesce a muoverlo, a pilotarlo meglio, nell'esercito c'è quel comandante che ha fatto quelle cose che è stato messo da quell'altra parte, è tutto un collegamento, c'è sempre un comando sopra, di sopra di tutto, ma non in Italia, a livello mondiale, c'è una loggia, una massoneria, chiamiamola come volete voi, che comandano tutte queste, si muovono tutte le cose, dalle guerre ai coso, alla moneta. Chi comanda tutto è sempre la moneta comunque. Ma io dico un'altra cosa, che non è con lo facile semplicismo o con per forza le ipotesi complottistiche che si risolvono i problemi. Questi problemi spesso si creano volutamente per creare il caos e purtroppo vedi, un uomo che è senza storia, probabilmente anche senza futuro, perché la storia più volte ci ha ribadito qual è la strada da prendere e quali sono le cose veramente da ricordare. E in questo periodo ci sono delle cose che sono molto simili a quelle che sono capitate negli anni 20 e negli anni 30, che ci dovrebbero fare addrizzare molto le orecchie e che purtroppo i nostri papà a raccontarcelo non ci sono più, e quindi è molto facile dimenticarsi delle cose, di come sono nate. Può sembrare strano, ma basta una persona sbagliata al posto giusto per combinare un disastro, e dalle carte che sono uscite anche dal Pentagono è stato rivelato che Trump più di una volta è stato fermato dalla voglia di combinare guai, e questo sta capitando, è capitato ai giorni nostri, e adesso certi eventi stanno capitando ugualmente in altre parti del mondo, che però sembrano, ripeto, analoghi a quelli che sono capitati negli anni 30. Quindi bisogna stare allerta. allora, bisogna partire da un principio. Se signor Trump i soldi ce li aveva, ha fatto non so per quale motivo entrare in politica, secondo me fatto da quanto era, però per certi versi ha cercato di andare per conto proprio, senza farsi guidare da come sono stati guidati tutti gli altri presidenti della Repubblica americani, a parte i Kennedy, forse sono stati gli unici che sono scesi con i propri piedi, infatti li hanno ammazzati, l'altro che doveva essere eletto l'hanno ammazzato. Questo che c'è adesso, non pensare che sia meglio di Trump, assolutamente, questo è molto, ma molto più pericoloso, perché questo è stato messo apposta lì dentro, e noi dobbiamo stare attenti che con questo non succedano delle cose molto più gravi. L'esempio più importante è questo dell'Afghanistan, che non ce ne siamo accorti a cosa si può andare incontro con il terrorismo, che adesso ci sarà di nuovo la fabbrica del terrorismo, e poi dobbiamo stare attenti a quello che può succedere, che io sono molto preoccupato, e non ne stanno parlando, di quello che può succedere a Taiwan, dove gli americani sono pronti da un momento all'altro ad attaccare i cinesi, la stessa cosa, perché i cinesi vogliono annettersi di nuovo Taiwan, e gli americani hanno detto se si azzardano a toccare Taiwan intervengono loro, e a quel punto scoppia la terza guerra mondiale e non ci sarà più essere umano che sopravviverà dalla terra se succede una cosa del genere. Speriamo che si fermino prima. E Biden è molto più pericoloso di Trump, perché Trump era un industriale, una persona che gli piaceva la bella vita, questo qua invece è un altro genere di personaggio che gli piace avere proprietà e potere. Beh, Trump in realtà era un uomo d'affari, non era propriamente un industriale, era un uomo d'affari che si è accorto che nell'ultimo periodo questi affari stavano un po' andando maluccio, perché c'era molta, si erano invischiate molte cosette, quindi è riuscito a spuntarla in politica con le teorie dei muri, delle palizzate e così via, e del tutto per l'America. Fortunatamente molti si sono accorti che è andata male, perché ha fatto il calcolo male e si è dato a dare, diciamo, la spalla a certe frange che sono, si può dire, un termine molto usato, rigorosamente fasciste. Tieni presente che oramai il termine fascista non significa il fascismo che pensiamo noi, più che altro legato ai comportamenti fascisti. Quindi se finisce fascista quello che c'ha dei comportamenti che all'epoca erano anche dei fascisti. E questo è successo in altri anni, non so se hai seguito la documentazione di Roosevelt, che ha dovuto lottare parecchio per combattere, per far scendere gli Stati Uniti in guerra. E probabilmente non sarebbe potuto scendere in guerra se non avessero bombardato i giapponesi Pearl Harbor, perché la maggior parte degli americani era favorevole sia alla politica di Hitler sia favorevole alla politica soprattutto di Mussolini. Capito? E questo è quello che dice la storia. E insomma, ci sono tante cose da vedere, sono cose complesse, sono interessi enormi, spesso scellerati. Comunque così, 23:09:22 secondi, che ne dici? Sì, concludo con una cosa, poi c'è tardi anche per me, anche se domani non lavoro. Allora, attenzione che la storia è quella che ti hanno voluto far vedere, la storia non è esattamente come l'abbiamo vista e ce l'hanno insegnata. E se ti do la controprova, guardati chi era Giuseppe Garibaldi, e poi ti rendi conto quello che noi abbiamo studiato, che Giuseppe Garibaldi era un eroe, ha salvato l'Italia, assolutamente no. E tutta una cosa diversa, era un mercenario comandato dagli inglesi, ha ammazzato tanta di quella gente che la metà sono troppe, ha creato tante di quelle cose schifose, fatto delle cose bruttissime, e noi lo conosciamo come un eroe. Tutte le città italiane c'è Piazza Garibaldi, via Garibaldi, eccetera eccetera. Parliamo di Cristoforo Colombo, parliamo di tantissima gente che hanno ammazzato tanta gente, e noi sono tutti tutti eroi, navigatori, eccetera, eccetera. E Giuseppe Garibaldi era una persona, non si dice, però era un grande, infame mercenario, ha rinnegato l'Italia perché lui in pena in coso di morte, ci sono le sue memorie scritte, eccetera, eccetera. Lui ha detto: io non mi sento, non mi sono mai sentito italiano, eccetera, eccetera. E poi ci sono tutti i fatti, guarda che cosa è successo quando diciamo ha liberato la Sicilia, cosa che ha liberato la Sicilia? Non si sono permessi a sparare i Borbuni perché c'erano le navi inglesi davanti pronte a intervenire. È tutta una cosa inventata di sana piana. E noi, con me compreso, perché uno non si legge la realtà dei fatti, per cui noi ci possono raccontare tutto quello che vogliono, come le Torri Gemelle, come l'attacco in Afghanistan, come l'attacco di Saddam Hussein per armi di distruzione di massa fatte da Bush, che era tutta una cosa inventata, che loro sono i bravi e quelli sono i cattivi, gli indiani erano i cattivi, noi abbiamo vissuto da piccoli sempre che gli indiani erano i cattivi e i bravi erano, invece non è così la realtà, bisogna stare un po' attenti. Infatti è quello che dico io, bisogna stare molto attenti, tu me lo confermi, perché c'è una tendenza a distorcere fatti a cui molte persone hanno dedicato la vita a studiare, nello studio, nell'andare a scovare dei documenti remoti, andare, diciamo, passare la propria esistenza nell'accettare le verità storiche, si vedono sconvolte le loro vite, che a questo punto risultano quasi inutili, nello scoprire che oggi basta mettere sui social qualche proclama, qualche cosa, per scoprire improvvisamente che quelle persone hanno fatto un cattivo lavoro, cosa che non è. Ma questa è una questione, diciamo, a livello che lascio alla considerazione di ogni singola persona che anche ci ascolta. Comunque, dicendo ciò, ovviamente per farne breve dico che sono assolutamente in disaccordo con quello che ha detto, fosse altro, perché anch'io sono un appassionato di storia e ho parlato con i veri storici, quelli che passano proprio la vita per passione, così come nella passione per la radio, a studiare queste cose, che se fosse la loro ascolto probabilmente sarebbero inorriditi, però diciamo io sono anche un liberale, quindi dico a ognuno la sua opinione. Con ciò ti chiedo permesso di quello di riandare a nonna, questa prima presente che per me è almeno 2-3 anni che nonna, che non rimango fino a quest'ora. Ok, anche tu dici. Va bene, dai, comunque ci abbiamo fatto chiacchierate di diversi generi di argomenti, sono stati sempre interessanti, qualcuno magari non si andava d'accordo sulla risposta o sulle condizioni, l'importante è discuterne, ma ci sentiamo alle prossime. Ciao, buon di tutto, buonanotte, anche io stacco le telecomunicazioni, ciao Gianfranco, alle prossime. Ok, saluto anche chi indubbiamente avrà avuto la pazienza di ascoltarci. Una di queste volte dovremmo mettere anche la sigla di chiusura e quando terminiamo, che ne dici? Sì, quella tu che sei pratico in digitale la mandi su registrazione digitale. È tipo quella di Tribuna Politica, andrebbe bene. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.